E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo Summertime di Elisabetta Fiorito. Ma di quello che si dice, che sussurrano gli amici e che mormora la gente, non me ne importa niente, non me ne importa niente. Tutti vogliono parlare, tutti vogliono criticare ese mondo maldicente, non me ne importa niente, non me ne importa niente. Buongiorno, buongiorno. No, non siete sintonizzati su LEIAR, ve lo ricordate, l'ente italiana audizioni radiofoniche? No, no, siete sempre su Radio 24. Però noi questa sera andiamo a Loano, in provincia di Savona, dove le sorelle Marinetti si esibiscono proprio in Non ce ne importa niente. Allora, noi come scoop dal passato, da questa musica anni 30, abbiamo in linea Turbina Marinetti. Buongiorno. Buongiorno. E anche il pianoforte Christian Schmitz. Buongiorno a tutti. Allora, Nicola Olivieri, alias Turbina Marinetti, è uno dei tre cantanti che compongono questo trio. Come è nata questa idea? Questa idea è nata a Giorgio Umberto Bozzo, che è anche l'autore dello spettacolo, ed è un bellissimo lavoro teatral-musicale sull'epopea della radio, quindi gli anni migliori della radio, gli anni 30 e 40. Quando si facevano le audizioni, quando però c'era questa voglia di telefoni bianchi per mascherare quello che poi era una dittatura, in effetti, che però diede anche i natali al trio Alescana, cui voi vi riferite poi tra le altre cose. Sì, in questo spettacolo noi raccontiamo in filigrana la vicenda umana artistica del trio Lescano, ma soprattutto la musica a fare da tramite in questo spettacolo. Quindi bellissima musica composta da autori italiani, musica e ovviamente canzoni di quel tempo, canzoni che allietavano gli italiani e che facevano anche ballare gli italiani nelle dancing hall del tempo. Christian Schmitz al pianoforte, che cosa vuol dire suonare con le sorelle Marinetti? Anche perché dovete adattare a dei toni un pochino più bassi di quelli del trio Lescano. Ma allora, in realtà io, oltre ad essere il pianista del gruppo, sono anche l'arrangiatore, il coordinatore musicale un po' di tutto il progetto. Per cui posso dire che il lavoro che è stato fatto è stato proprio di una sorta di recupero filologico del materiale che oggi è quasi del tutto dimenticato. Sì, non è stato facile, poi bisognerà chiederlo anche a Turbina, che come è stato in un certo senso calarsi in voci anche inusuali per degli uomini. Noi andiamo a riscoprire un repertorio molto particolare, dicevo, perché è tutto repertorio italiano risalente agli anni 30-40, cantato con uno stile molto particolare, cioè quello del canto armonizzato, dove tre voci cantano con le stesse parole, quindi sugli stessi ritmi, però su note diverse dell'accordo, e allora si crea un'armonia molto particolare, un impasto molto magico. Com'era il trio Lescano, che avevano tre tonalità diverse, no? Poi c'era una solista esatto, tra di loro. In realtà nel canto armonico non si parla mai di solista, c'è una voce più acuta, una voce media e una voce grave, e le tre voci insieme creano un'armonia e fanno sentire poi tutto quello che è il movimento melodico, ritmico e armonico, per cui diventa una cosa molto particolare e riconoscibilissima, ma noi riconosciamo anche questa canzone. By me this is shame, please let me explain. By me this is shame, means you're grand. Addirittura si ritorna alle Andrews Sister, Turbina. Sì, le Andrews Sister, che erano appunto le sorelline d'oltreoceano, che tra l'altro con questo brano hanno venduto milioni di dischi, By Me Bist Du Schön. Senti Turbina, ma tu che tonalità hai rispetto a Mercuria e Scintilla Marinetti? Beh, intanto sono la sorella maggiore, quella che è tra due fuochi. Tra due fuochi... due personaggi differenti, c'è cioè una sorella più proiettata verso il futuro e l'altra invece più sognatrice. E intanto io sono il contralto del gruppo, quindi la voce più grave, Mercuria, che è la più sognatrice, la voce mediana, invece scintilla, svetta sugli acuti. Quindi un bellissimo gioco vocale, ma anche un gioco teatrale, quindi attraverso, nello spettacolo, noi tra sketch divertenti e leggeri parliamo un po' di quell'epoca meravigliosa che è stata purtroppo anche dimenticata. Christian Schmitz, tu non sei nuovo, no? Perché tu hai fatto anche l'orchestra Maniscalchi, giusto? Esatto. Ce la ricordiamo a Summertime, qui non si perdono le tracce. Quindi è proprio una passione per questo genere di musica. Assolutamente sì. È la volontà di recuperare qualche cosa di un passato ormai lontano, che ha creato, almeno dal punto di vista artistico e così sotto il profilo dell'intrattenimento, delle cose molto belle. È ovvio che nessuno vuole negare ciò che è stato, però con la fine della guerra, quando c'è stato poi la volontà di cesura con il passato, si è buttato via tutto quello che era stato creato. E invece abbiamo, facendo queste ricerche in ambito musicale, quindi si parla di canzone jazzata, canzone swing, in quindi in qualche modo ha a che fare anche con la musica leggera dell'epoca, abbiamo scoperto degli autori meravigliosi, dei grandi cantanti, degli arrangiatori di grandissimo spessore, e purtroppo tutto questo patrimonio è stato quasi del tutto dimenticato. Invece ci sono tantissime cose da recuperare, e noi vediamo nei nostri spettacoli che è un repertorio che piace sia alle persone di una certa età, ma anche ai ragazzi, ai giovani, addirittura anche molti bambini amano sentire queste canzoni così allegre, così spensierate. I testi, che a volte sono, è vero, ingenui, a volte addirittura sciocchini, ma riescono sempre a far trasmettere del buon umore, insomma, a strappare poi sempre un sorriso. Poi Christian, ricordiamo che il trio Lescano era composto da tre sorelle di origine olandese e di religione ebraica, che furono poi perseguitate durante il regime, quindi si dovettero nascondere. Fu insomma una vera e propria epopea la loro. Sì, hanno avuto una vita, una carriera sfolgorante, brevissima, perché appunto durò poco più di 6 anni, ma in quel periodo riuscirono a incidere qualcosa come 350 brani, per dire quanto lavoravano e quanto fossero richieste, quanto fossero amate. E in un certo senso hanno rappresentato uno stile. Oggi tutti noi ricordiamo Pinguino innamorato, Marammò perché sei morto, e quando le riascoltiamo nella loro versione originale, anche solo poche battute, subito riconosciamo questa sonorità così particolare. Parlano fra loro i tulli, tulli, tulli, tulipa. Mormorano in coro i tulli, tulli, tulli, tulipa. Odi il canto delizioso, nell'incanto sospiroso. Parlano d'amore. Delizioso cuore, tutti i sogni miei ti giungerà, e di me ti parleranno. I meravigliosi tulli, tulli, tulli, tulli, tulli, tulli. Turbina, allora, che cosa vuol dire cantare e recitare in questo spettacolo? Anche perché quante prove avete dovuto fare? Abbiamo lavorato circa un anno, sia con maestro Christian Schmitz, che con Andrea Lione, che è appunto Mercuria Marinetti, che è la coreografa, diciamo, delle sorelle, e è stato un bellissimo lavoro che ci ha fatto conoscere questo bellissimo repertorio. E devo dirti la verità, per noi è una grande emozione tutte le sere salire in palcoscenico e vestire i panni di queste signorine dell'epoca, così sobrie, così eleganti, così timidamente sensuali, che cantano delle canzoni affascinanti, è davvero emozionante. Per cui noi siamo grati a Christian Schmitz e a Umberto Bozzo per averci dato questa grandissima possibilità. Ed è uno spettacolo aperto a tutti, e quindi stasera saremo lì per vivere insieme al pubblico questa grande, grande emozione. Allora, ricordiamo poi che le sorelle Marinetti, come diceva giustamente Turbina Marinetti, vanno in scena vestite veramente anni 30-40, con questi capelli boccolosi, con queste code di volpe e con questi tailleur che evidenziano la vita. Allora, le sorelle Marinetti questa sera sono a Loano, in provincia di Savona, al Giardino del Principe, appuntamento alle ore 21. Abbiamo sentito Nicola Olivieri che veste i panni di Turbina Marinetti, ma ricordiamo le altre due: Andrea Aglione, Mercuria Marinetti, e Marco Lulli, Scintilla Marinetti. Al pianoforte, nonché arrangiatore, il maestro Christian Schmitz, che noi salutiamo. Salutiamo tutti quanti e buonasera. Buon divertimento allora con questa musica anni 40. Quando noi vediamo una ragazza passeggiare, cosa facciamo? Noi la seguiamo e con occhio scaltro poi cerchiamo di indovinare quello che c'è da capo a piedi. Sono belli gli occhi neri, sono belli gli occhi blu. Ma le gambe, a me piacciono di più. Sono belli gli occhi azzurri, e nasini un po' all'insù. Ma le gambe, sono belle ancora di più. Le manine deliziose ti sapranno accarezzare. Dal musetto seduto ti guarderà, ti parlerà, il suo sguardo acuto, prepotente, indagatore, che cosa fa? L'avvolgerà. Saranno belli gli occhi neri, saranno belli gli occhi blu. Ma le gambe, a me piacciono di più. Saranno belli gli occhi azzurri, un po' all'insù. Ma le gambe, sono belle ancora di più. Le manine deliziose ti sapranno accarezzar, ma due gambe un po' nervose ti faranno innamorar. Saranno belli gli occhi neri, saranno belli gli occhi blu. Ma le gambe, sono belle ancora di più. A Bolzano, dove ci aspetta un ferragosto di musica. Sì, perché il 15 agosto c'è un appuntamento con la Gustav Mahler Jugend Orchestra e poi c'è la European Junior Youth Orchestra il 16 agosto. E ad organizzare tutto questo festival Bolzano Festival Bozen è Peter Paul Kainrat. Buongiorno. Buongiorno a tutti, se mi posso permettere subito di essere più preciso ancora, perché non sono io a organizzarlo, sono il coordinatore, e questo è importante perché è un progetto credo molto innovativo dove quattro partner si sono messi insieme e formano questo Bolzano Festival Bozen, Antiqua, che quest'anno festeggia 20 anni, le orchestre giovanili da sempre presenti nella città di Bolzano, il concorso Busoni e la fondazione Gustav Mahler. Ecco, quindi lei comunque ha messo insieme tutte quante queste organizzazioni. Il 15 agosto che cosa succede? All'Hotel Laurin? Giusto, ormai è una tradizione quasi, la possiamo chiamare, è un piccolo regalo che fanno questi giovani musicisti che passano un momento molto importante della loro carriera, del loro lavorare a Bolzano, quando mettono in piedi i programmi con cui poi loro girano i grandi festival europei, quest'anno con Sir Colin Davis da un lato, David Afkam e dall'altro con Vladimir Ashkenazy. E quest'anno sono alcuni musicisti della Gustav Mahler Jugendorchester con cui festeggiamo proprio il Ferragosto alle 10 di sera nel parco di questo bellissimo albergo Laurino, con alcune musiche di musica da camera e un concerto d'entrata gratuita. È un gesto, diciamo, di gratitudine verso la cittadinanza, dove si può vivere questi musicisti in modo molto ravvicinato. Ecco, voi suoneranno poi un overture di Schubert e poi un sestetto per archi. Quanti musicisti ci sono? Ci saranno 7 musicisti. Quindi, insomma, è come dice lei, è musica da camera. Mentre il 16 agosto c'è un altro appuntamento, questa volta al Teatro Comunale di Bolzano. Giusto, è la Union Youth Orchestra, l'European Union Youth Orchestra, diretta da Vladimir Ashkenazy, che è il direttore musicale ormai da alcuni anni. Un programma di fuoco, lo chiamerei, non solo perché c'è l'uccello di fuoco di Stravinsky, ma anche titanico, perché c'è il Titano, la sinfonia numero uno di Gustav Mahler. Quindi, insomma, è un programma ricco. Poi però voi, a parte il 15 e il 16, no? Andate avanti per altro tempo, per altre performance? Noi andiamo avanti perché la settimana scorsa c'era la Gustav Mahler Jugendorchester, Orchestra in Residence, che con David Afkam ha preparato un primo programma. Loro sono adesso attualmente al Festival di Salisburgo, tornano nella nostra città con Sir Colin Davis e il grandissimo mezzo soprano Susan Graham per intanto presentare la sinfonia in tre movimenti di Stravinsky, la Scheherazade di Ravel, dove canta Graham, e poi la quarta sinfonia di Tchaikovsky. Per noi un appuntamento molto importante perché, come se lo si è capito, questi programmi si elaborano o li studiano proprio a Bolzano per poi diventare proprio quasi degli ambasciatori del loro lavoro di Bolzano e lo portano in giro per l'Europa. Sì, perché poi tra le altre cose io vedo che appunto ci sono appuntamenti il 23 agosto, il 25 settembre, insomma fino addirittura al primo ottobre, giusto? Quando finisce? Chiude proprio il Bolzano Festival Bozen con l'ultimo concerto di musica da camera della Fondazione Accademia Gustav Mahler, progetto importantissimo per la città perché fondato da Claudio Abbado e permette a questi giovani, oltre al lavoro nelle orchestre giovanili, di approfondire tutto lo studio anche entrando dalla porta della musica da camera e diciamo dà una unicità a questo festival che da sempre in questo comune di Bolzano è stato lungimirante e subsuma diciamo col binomio della musica e gioventù questo loro impegno nella musica classica, cioè che è un investimento nel futuro di questi giovani talenti. Allora noi ringraziamo Peter Paul Kainrat, abbiamo sentito organizzatore del festival Bolzano Festival Bozen. Vi ricordiamo l'appuntamento per stasera 15 agosto con i musicisti della Gustav Mahler Jugendorchestra e poi domani il 16 invece con la European Union Youth Orchestra guidata da Vladimir Ashkenazy. Grazie. Grazie a lei. E noi ritorniamo alla Calatafimis e Gesta Festival perché questo Ferragosto è all'insegna delle risate, sì, all'insegna delle risate con uno spettacolo di Paolo Graziosi scritto da Plauto, l'altro anfitrione. Buongiorno Paolo. Buongiorno, buongiorno, come sta? Bene, e voi che come state in questa atmosfera plautina? Beh, bene, bene, stiamo avendo un successo dietro l'altro qui in Sicilia, lo spettacolo piace molto, siamo abbastanza contenti e non vediamo l'ora di arrivare a Segesta per confrontarci con uno spazio bellissimo, con un pubblico che so assolutamente straordinario e con questo spettacolo dove si ride molto. Ecco, io leggo che la storia narra le vicende di Anfitrione, giusto, e del suo servo Sosia. Le vicende di Anfitrione del suo servo Sosia, che da allora si chiamano così i Sosia, appunto, i quali partono da Tebe in guerra. Quindi è una commedia degli errori. Una commedia dei doppi, veramente. Ci sono due doppi, c'è il doppio di Sosia e di Mercurio, c'è Mercurio che si traveste da Sosia e c'è Giove, addirittura Giove, il grande dio degli dei, diciamo, che si traveste per concupire la moglie, si traveste da Anfitrione. Quindi i doppi sono due, ci sono quattro personaggi che fanno due doppi. Ecco, ma Anfitrione in questo caso invece è un po' una vittima. Anfitrione è un po' un cornuto, soprattutto. Sì. Vittima cornuta. È un cornuto classico, diciamo così, molto, molto mazziato, molto bastonato dal grande Giove, e ad un certo punto deve abbozzare, perché appunto è Giove che lo cornifica con la moglie, la moglie Alcmena. E poi alla fine c'è una gravidanza addirittura, diciamo doppia. Come è poi avvenuto nella storia, ma si ricorda, no? Che una... Tanto per continuare il gioco dei doppi, Alcmena dà alla luce due gemelli, uno figlio di Anfitrione e l'altro figlio del grande Giove. Quindi Plauto aveva previsto quello che poi ha scoperto la scienza, cioè che si possono avere due gemelli di due padri diversi se una donna è, ovviamente ha dei rapporti con più partners. Quindi Plauto, che insomma addirittura 2000 anni fa aveva previsto tutto. Aveva anticipato le ultime scoperte della scienza, beh certo. Allora, perché questa riscoperta di Plauto, che cosa ci può dare oggi? Ma Plauto, per soprattutto poter frequentare i luoghi che ci sottopongono, i teatri di pietra, cioè sono degli spazi archeologici stupendi, bellissimi, che io stesso scopro per la prima volta, perché molti non, di questi spazi non li conoscevo, con questo circuito che si chiama appunto Circuito dei Teatri di Pietra, diretto da Aurelio Gatti, e quindi abbiamo pensato che una commedia classica, appunto come quella di Plauto, fosse adatta per questi spazi. E poi ci siamo voluti divertire, ovviamente abbiamo riunito una compagnia di attori piuttosto bravi. C'è Vincenzo Ferrera che fa Anfitrione, c'è Graziano Piazza che fa Giove, c'è Elisabetta Arosio che fa Alcmena, la moglie di Anfitrione, appunto quella che subisce la concupiscenza di Giove, e poi Rino Marino che fa Mercurio, che è un figlio di Giove che lo assiste in questa impresa, diciamo così, di tradimenti della grande Giunone, e che ha fatto il testo, che ha riscritto il testo, che ha ritradotto il testo, un autore siciliano molto interessante, un giovane autore siciliano molto interessante, appunto Rino Marino, ha fatto una bellissima traduzione e riduzione, perché come probabilmente sa, il testo originale di Plauto è mancante di 300 versi, per cui bisogna in qualche modo integrare questo. Cioè, mancanza, bisogna arrivare alla fine, perché sennò qua se non si arriva alla fine era un'opera incompiuta, come fa? Sarebbe distrutta, allora, dal possente Giove, no. A un certo punto bisogna arrivare a una conclusione, ecco. No, quello che mi viene in mente, no, che noi diciamo oggi Anfitrione è diventato, no, un modo di dire, è un anfitrione, invece non sapevo che dire è un anfitrione a una persona vuol dire che è un po' cornuto, ecco. Io non cornuto e mazziato. Cioè, noi pensiamo ad un anfitrione, una persona ricca, no? Generosa, che dà le feste, che ospita, eccetera. Il mio anfitrione, eccetera. Invece no, Plauto ci dice che la realtà è un'altra. Realtà è questa. La realtà è l'origine è questo, insomma, che Anfitrione alla fine accoglie i consigli di Giove e anche lui si mette ad allattare il secondo genito, cioè il figlio, uno dei due gemelli che è nato dal seme di Giove, per cui sarà questa l'origine di questa generosità, evidentemente, va bene, un po' equivoca. Allora, noi ringraziamo Paolo Graziosi, ricordiamo l'appuntamento con l'altro anfitrione, il giorno di Ferragosto, il 15, oggi, quindi a Segesta, la Caravata Film Segesta Festival, e buon divertimento con Plauto. Grazie Paolo. Volevo dire che io faccio sosia. Ah, ecco. Io faccio sosia, questo non l'avevo detto, faccio sosia. Difatti sente la mia voce un po' provata, proprio perché bisogna darci molto dentro in questi spazi, e sosia è un personaggio piuttosto impegnativo ma molto divertente. Quindi io ho sacrificato pure la voce. Perfetto, allora ricordiamoci Plauto, l'altro anfitrione, Segesta Festival oggi a Ferragosto. Grazie. Aspetto. Arrivederci. E noi rimaniamo in città, Ferragosto, sì, vogliamo andare contro tendenza, perché a Roma c'è un'apertura straordinaria per i musei civici. Abbiamo con noi qui a Summertime l'assessore alla cultura del Comune di Roma, Dino Gasperini. Buongiorno assessore. Buongiorno a lei, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Allora, cosa succede oggi? Tutti i musei sono aperti? Tutti i musei sono aperti, tutti i musei aperti a Ferragosto, 19 musei del sistema dei musei civici di Roma metteranno in mostra le più belle collezioni e le grandi mostre che si stanno realizzando nella nostra città in un giorno due volte festivo, perché è Ferragosto e perché capita in un giorno in cui generalmente il lunedì i musei comunali sono chiusi, e quindi doppia apertura straordinaria. Quindi si aprono i musei di lunedì e di Ferragosto. I musei di lunedì e di Ferragosto, ma oramai a Roma abbiamo sperimentato anche i musei aperti, e questa è una novità di quest'estate, tutti sabati sera dalle 20 all'1 di notte, con un successo straordinario di turisti e di cittadini che hanno scoperto un modo nuovo di vedere, di imparare, di conoscere. Quindi anche per chi rimane in città c'è sempre una grandissima offerta. Io poi leggo un pochino, no, delle mostre, c'è Poesia della natura, acquarelli al Palazzo Braschi, Lungo i fiumi di Babilonia invece al Museo di Scultura Antica, Calce Viva ai mercati di Traiano, più la mostra di Angeli sempre ai mercati di Traiano, più i volti del potere, le facce del potere ai Capitolini, e la mostra, la ricordiamo, quella che abbiamo aperto per la beatificazione di Giovanni Paolo II, che è rimasta ancora aperta ai musei capitolini ed è un'occasione più unica che rara, ma molto altro, e in particolare, dicevo, al di là del giorno del Ferragosto, il sabato sera si dialoga tra arti, perché nei musei c'è jazz, c'è musica classica, ci sono reading letterari, c'è teatro, c'è molto di più, e cioè nell'accezione più propria del termine il luogo di confronto delle muse è tornato a vivere all'interno dei musei della capitale. Quindi insomma un successo di questa giunta. Io poi vedo, no, la giunta di centrodestra, no, noi la provochiamo un pochino, no? Perché vedo che a Trastevere, al Museo di Roma di Trastevere, c'è Cuba, una storia anche italiana, Che Guevara fotografo, quindi insomma... Esatto, c'è una bellissima mostra di Guevara fotografo con degli autoscatti straordinari, ve li suggerisco, al piano terra, e al primo piano Cuba, e quindi davvero uno spaccato molto particolare in occasione di uno scambio culturale molto importante. A novembre l'Italia si confronterà con Cuba, la cultura italiana con Cuba, e quindi abbiamo voluto rendere omaggio a questa isola meravigliosa, alla sua cultura, alla sua tradizione, e lo abbiamo fatto, ripeto, mettendo in luce una parte, una delle poche parti di Guevara che poco si conosceva, e quindi con la sua macchina fotografica quello che ha testimoniato di se stesso e dei luoghi dove è stato. Poi c'è una mostra dedicata all'Italia in modo un po' burlesco, che è quella di Forattini, Viva l'Italia. Fantastica, quella più che una mostra normale di fumetti è una mostra vera di arte contemporanea, insomma, parliamo di un genio, parliamo di chi ha fatto sorridere chi veniva ritratto. Nei primi tempi era difficile fare satira, e poi Forattini ha dimostrato che chi non aveva la propria immagine contava poco nel nostro paese, chi non aveva la propria caricatura fatta da Forattini. Gli abbiamo voluto dedicare uno spazio enorme al Museo Bilotti, i numeri ci stanno dando ragione, e sta avvenendo davvero un grande spazio sull'espositivo, ma a Roma sull'espositivo abbiamo investito anche in un altro modo, abbiamo creato Roma Exhibit, che è questo primo circuito integrato dell'espositivo che mette insieme tutti, musei civici, musei di Stato, fondazioni private, con una programmazione unica, una comunicazione unica, un sito unico che stiamo mettendo in piedi, link tra i vari soggetti partecipanti e con un anno di anticipo per il momento e con 3 anni dal prossimo anno si saprà che cosa succede nella città eterna da un punto di vista dell'esposizione. Allora ringraziamo l'assessore alla cultura del Comune di Roma Dino Gasperini che ci ha illustrato alcuni dei musei aperti a Ferragosto, ricordiamo apertura straordinaria per Ferragosto perché è lunedì, tutti i musei di Roma sono aperti al pubblico. Grazie assessore. Grazie a lei, grazie a tutti gli ascoltatori, buona giornata. Buona giornata. Da Roma passiamo a Milano per questo 15 agosto. Perché? Perché se a Roma sono aperti i musei, a Milano invece si balla il samba. Show Brasil per il gran finale è proprio la chiude la rassegna di Assago che per 2 mesi ha proposto colori, note, costumi, sapori, arte, tradizioni dello spirito dell'America Latina. Allora, Claudio Colombo, che è stato il presentatore degli eventi, che cosa è successo a Milano? Di tutto e di più? Allora, è successo di tutto e di più. Intanto vi saluto calorosamente, non potrebbe essere altrimenti, visto che siamo così in un angolo di America Latina. Abbiamo avuto i più grandi artisti, i grandi cantautori, i gruppi, c'è stato il tango, il reggaeton, la salsa, c'è stato Lucenzo, quello della danza kuduro, che è il fenomeno mondiale del momento. Insomma, di tutto di più. Però questa sera chiudiamo col botto, perché viene a trovarci un gruppo che rappresenta un po' il carnevale brasiliano, quindi ballerine, percussionisti, musicisti, artisti vari, capoeira, che è quell'arte marziale che poi è una danza. Quindi insomma, grande festa carioca, grande carnevale. Poi anche perché il capoeira è molto bello da vedere, ma faticosissimo, cioè fanno delle evoluzioni molto molto particolari. Sì, sì, molto particolari, era una danza che veniva utilizzata dagli schiavi, che in realtà camuffavano sotto forma di danza degli allenamenti che loro facevano di difesa personale e di attacco, quindi di fatto era una lotta, però loro facevano credere ai loro colonizzatori, ai loro padroni che si trattasse di una danza tribale, e poi si è tramandata. È veramente bella da vedere perché compiono queste evoluzioni sferrando soprattutto calci, giravolte, cose, passando a pochi centimetri dal viso e dal corpo l'uno dall'altro. Infatti è abbastanza impressionante da vedere. Ecco, che cosa attrae ancora oggi del Brasile questo sogno della spiaggia di Copacabana, non so, c'è ancora questa attrazione? Era molto forte negli anni passati, no? Poi sembrava un po' scemata, invece è ritornato di moda. Sì, è ritornata di moda. Io ho diversi amici, tra l'altro molti di questi lavorano all'interno del Festival Latinoamericano, perché in effetti non è riprodotta solo un angolo di America Latina, ma quasi tutte le persone che ci lavorano vengono da quei paesi. E i brasiliani in particolare, chi è innamorato del Brasile, poi decide di andarci a vivere, proprio perché ci sono delle zone, oltre a quelle che tutti conoscono, ma delle zone inesplorate, soprattutto al nord, andando verso il nord e nord-est, che sono di una bellezza naturale incomparabile, offrono possibilità anche diciamo di creare delle piccole attività commerciali o magari anche dei piccoli ristoranti piuttosto che locali. Insomma, è ancora un territorio vergine, e poi si vive un entusiasmo, un'allegria, una vita fatta di cose semplici, essenziali, che poi sono quelle che contano di più, e che in Italia insomma è un pochino difficile da riproporre. A Milano poi insomma è un po' diverso il clima. Ecco, un po' diverso, sì. Sapori, costumi e arte, insomma, voi avete anche quindi proposto la cucina brasiliana, per esempio? Certo, all'interno dello spazio sono circa 50.000 metri quadrati, è come fosse un villaggio con le piazze, con le botteghe d'artigianato, mostre d'arte e così via, e poi ci sono sei ristoranti, uno in particolare, quello brasiliano, è il più grande, ha anche una zona dedicata a dei concerti, c'è un gruppo che si esibisce durante e dopo la cena, e il mangiare brasiliano direi è una delle gastronomie che hanno preso piede di più in Italia, è stata forse la prima a entrare, no? Insieme a quella argentina, e a base soprattutto di carne. Prima c'è un antipasto misto e poi cominciano ad arrivare al tavolo con le cosiddette picagnas, che sono questi spiedoni che vengono posati su un piatto e poi vengono tagliate delle fettine a mano a seconda dei gusti del cliente. È veramente uno spettacolo, proprio anche la presentazione di questi piatti. Ecco, invece per quanto riguarda salsa, rumba, insomma il ballo è stato molto importante, sarà poi molto importante questa sera, no? Sì, il ballo è molto importante questa sera, noi avremo soprattutto, come dicevi in apertura della telefonata, è soprattutto il carnevale, quindi grande samba, grande batucada, che è la samba accompagnata appunto dai percussionisti ritmicamente, ma per quanto riguarda invece la salsa, la rumba, il mambo e poi i generi che adesso piacciono di più ai giovani come il reggaeton e come la stessa bachata, che sono i generi un po' più in voga, vengono poi suonati nel cosiddetto salsodromo, che è la discoteca, una grande discoteca coperta ma comunque tutta aperta ai lati, che si trova all'interno del nostro spazio. No, io voglio venire al salsodromo, io assolutamente. Il salsodromo non me lo posso perdere. Perché poi ci sono dei gruppi di animazione, ogni sera è uno diverso, in rappresentanza di una diversa scuola di Milano e fuori Milano, e loro insegnano i passi base, fanno vedere i balli di gruppo, insomma è una bella pestaggio di piedi di quelli portare scarpe coperte, no? Mai sandali. Senti, esatto. E poi mi dici no, perché lì se una persona si mette i sandali è finita. E invece mi dicevi appunto quindi in questo grande spazio dove tutto finisce in una grande festa. Sì, tutto finisce in una grande festa, perché poi come tradizione ormai da tantissimi anni al festival, che ha compiuto 21 anni, il Latinoamericano Expo, come tradizione l'ultima sera è una sorta di carnevale, quindi poi i capoeiristi, i percussionisti e soprattutto le ballerine sfileranno per il festival, avremo anche un po' qualche piccolo fuoco d'artificio, coriandoli e così via, e daremo l'appuntamento all'anno prossimo per la 22esima edizione. Claudio, io quando tu hai nominato le ballerine, sai che cosa mi è venuto in mente? Il cacao meravigliato, te le ricordi? Erano fantastici. Certo, come no, me le ricordo, sì. Fantastici. E da lì è nata questa moda, no? Brasileira. Sì, allora, sì, ricordiamo che per ballare stasera samba, rumba e più chi più ne ha più ne mette, esatto. Reggaeton, come hai detto te, per essere precisi, abbiamo sentito Claudio Colombo, che è il presentatore di Show Brasil per il gran finale ad Assago questa sera alle 21.30, Latinoamericano Expo, e niente, ci sarà di tutto e di più, quindi buon divertimento a tutti. Ciao Claudio. Grazie mille a voi. Samba. noi andiamo al teatro, al Salotto Rosso, perché a Ferragosto, aperto a Roma, nella zona di via Trieste a via Taro, c'è uno spettacolo un po' particolare del teatro instabile dello humor, uno spettacolo di Daniela Granata che si intitola Un amore un po' insolito. Buongiorno Daniela, perché insolito? Buongiorno, insolito perché l'amore che nasce fra una giornalista francese un po' bacchettona, bigotta, single per scelta, e un giovane politico non troppo maschio, un po' diverso. Quindi un po' gay, tipo... Esatto. Quindi hai voluto fare un pochino come una giornata particolare di Ettore Scola? Sì, anche... diverso da chi, no? Con un film che mi piacque molto quando uscì, e quindi mi è rimasta impressa questa storia e io a modo mio l'ho rimessa in scena, l'ho scritta e l'ho messa in scena, anche perché dobbiamo anche dare importanza all'omosessualità, non dobbiamo appunto discriminare anche questa, diciamo, questo lato umano delle persone. Certo, ma il problema è questo: un gay, sì, e una donna bacchettona, sì, un gay, sì, uomo ovviamente, no, una gay donna, e riescono poi a un certo punto... Non è una gay donna, è una donna normalissima lei. Lei è una donna bacchettona. Lei è una donna... Sì. Poi comunione e liberazione, perciò con delle idee abbastanza particolari, e si incontra con questo giovane tante gay, un politico, e poi piano piano succede che, lavorando insieme, perché lei deve fare una traduzione per un vertice che lui appunto dovrà partecipare a questo vertice, lei farà questa traduzione del discorso di questo qui, e piano piano molte idee poi alla fine collimano e nasce un amore. Un amore, un vero amore. Un vero amore anche fisico? Eh certo, e come no, con la nascita anche di un bambino. E il gay però poi dopo rimane... E rimane gay con il suo compagno e la sua compagna e il suo bambino. Quindi non è che c'è poi a un certo punto una svolta e lui rimane così com'è, però si riesce, forse questo, si riesce anche, un gay può anche amare una donna, chissà. Chissà, può darsi, perché no? Poi noi diremmo, bisex, forse, non lo so, staremo a vedere, ci sono tanti casi comunque. E io l'ho voluto mettere in scena così, una cosa nuova per me, è divertente. No, poi diciamo che forse quello che è la tua denuncia è che l'omosessualità non è tutta così schematica, oppure esatto, la sessualità non è schematica, esatto, no? Cioè, l'amore è una cosa. Esatto, sì, ma se poi c'è forse un vero amore profondo, tutto può succedere, secondo me, poi non lo so, Ma è un po' autobiografico, ti è successo questo nella vita? No, oppure hai sentito di persone? No, mi ha divertito questa cosa e basta, no, assolutamente non è autobiografico, no. Senti, ma perché una giornalista francese bacchettona? Perché, ecco, questo è un po', diciamo, francese, perché io sono vissuta molti anni in Francia, e la Francia comunque mi è rimasta nel cuore, e perciò questa giornalista, perché ho preso spunto di una mia amica giornalista ma è americana, che lei doveva proprio fare una traduzione, però non per un gay, per un professore di lettere, sì. Però ho preso questo spunto, unendo questo, mi è venuta in mente questa storia un po' stravagante. Ma io capisco, però se noi pensiamo alla Francia della rivoluzione, la Francia laica, ecco, per esempio una giornalista un po' bacchettona, io mi immaginavo già più spagnola, per dire, no, perché italiana. Io comunque la mia seconda lingua è il francese, e quindi nello spettacolo sono anche dei riferimenti alla Francia, così, perciò io poi la Spagna non sono molto amante della Spagna, perché c'è la corrida, io sono un'animalista convinta, quindi per me la Spagna è un bellissimo paese, però lo tengo in disparte proprio, e preferisco, ecco, non toccare la... Vabbè, insomma, e comunque, e questa è la storia. Allora, noi ricordiamo l'appuntamento a Via Taro, il sì. Salotto Rosso, il giorno di Ferragosto, sì, teatro sì, in scena, sì, sì. E poi vorrei ricordare una cosa sempre molto importante per noi, per il nostro teatro, che parte degli incassi vanno a un'associazione animalista che è Animal Mundi, creata da me molti anni fa e che ospitiamo molti animali salvati. E noi siamo sempre attivi con i diritti degli animali. Ecco, questo volevo dare importanza agli animali. Allora, teatro instabile dello Humor, teatro sì. al Salotto Rosso, 21:45, un amore un po' insolito, di Daniela Granata. Grazie. Sì. Grazie a te, ciao. Ciao, ciao, ciao. Ciao. Sex a thing, you. I believe in miracles. Since you came along, you sex a thing. E noi, dopo aver parlato di teatro, dopo aver parlato di musei, dopo aver parlato di Mahler, dopo aver parlato di musica classica, appunto, vogliamo anche parlare di Ferragosto. Allora, Ferragosto è sulle spiagge e sulla spiaggia di Marina di Pietrasanta, l'Ostras Beach, avverrà qualcosa che potremmo definire, se non culturale, culturista. Mister Italia 2011, abbiamo con noi l'organizzatore Alessandro Mazzucco. Che cosa succede stasera? Allora, questa sera abbiamo appunto, nella giornata di Ferragosto, abbiamo questo evento che è Mister Italia 2011, è un concorso nazionale naturalmente, una delle tappe finali prima della conclusione di settembre, e niente, abbiamo tutti questi aspiranti nuovi mister d'Italia che si contenderanno questa serata per varie fasce, fra cui l'uomo ideale d'Italia, il modello d'Italia, il volto più bello d'Italia, un bello per il cinema e mister talento. Queste saranno tutte le proclamazioni che avverranno questa serata, dove sarà una serata particolare, dove ci sarà di tutto, ci sarà già dalle 6 una festa in spiaggia con loro partecipanti, poi alle 8 ci sarà un cocktail party con un buffet, sempre naturalmente con tutti loro che parteciperanno, e dopo la sfilata e il concorso ci sarà appunto la programmazione di queste fasce, e poi la serata proseguirà con tutta la notte con la musica Ostras Beach. Ecco, ma quanti partecipano a questo Mister Italia? Allora, come noi abbiamo l'indicazione che sono 18 per adesso i partecipanti conclusivi di questa tappa. Quindi, e devono sfilare col costume, il boxer, allora, come devono sfilare? Hanno due sfilate, una con abito da sera e una in costume. Quindi anche per far vedere un po' i muscoli. Eh beh, certo, naturalmente. Perché... E il pubblico è composto prevalentemente femminile? Tipo... Pensiamo di sì, ecco, le richieste sono quasi tutte femminili, e tra cui anche la giuria, che sono formate da 12 donne, modelle, ex modelle, che sceglieranno naturalmente il Mister Italia. Ma loro devono anche fare una prova un po' di cultura generale, non so, chiedete chi era Garibaldi, chi era Cavour, no? Sì, faremo naturalmente delle domande per naturalmente conoscere il partecipante e farci descrivere un po' della sua vita, di quello che sa e di quello che vorrà fare, di tutto quello, insomma, le curiosità più dettagliate che uno può chiedere a un aspirante di un concorso del genere, ecco. Nelle edizioni passate io vedo che addirittura arrivato alla 34esima edizione questo Mister Italia, sì, no? Sì, ecco. Ostras Beach di Marina di Pietrasanta ha fatto emergere qualche volto maschile? Allora, nel concorso naturalmente sono emersi vari personaggi, tra cui Raffaele Balzo, Karim Capuano, Beppe Convertini, Maurizio Pizzicalli, anche Gabriel Gargo, quindi comunque da questo concorso che ha avuto varie fasi sono usciti vari personaggi che poi a tutt'oggi sono nel mondo dello spettacolo. Ecco. Quindi tu dici, non si sa mai, uno prova a partecipare? Ah sì, assolutamente, assolutamente. Partecipare penso sia importantissimo per chi crede in questa situazione, e comunque ne sono tanti, anche perché questo dura tutto l'anno, queste selezioni, e poi a settembre c'è la programmazione finale. Ecco. Allora tu speri che uno dei tuoi ragazzi possa essere colui che diventa Mister Italia, no? Eh beh, questo ce lo auguriamo, anche perché sarebbe comunque anche per noi un orgoglio di averlo avuto qui, ecco. Allora, tutti quanti in Versilia, a Marina di Pietrasanta, questa sera all'Ostras Beach, dove abbiamo sentito ci sarà una selezione di Mister Italia 2011 e anche una giuria composta da sole donne e il pubblico quasi solo femminile. Grazie ad Alessandro Mazzucco. Niente. Ciao, ciao. Ciao, grazie a voi. E anche per oggi è tutto, io ringrazio Alessandro Chiappini in regia, Gloria Guerrera in redazione, vi ricordo che ci potete scrivere a summertime@radio24.it. Una buona giornata da Elisabetta Fiorito.